America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The US job market improved in October far more than economists were expecting. Ecco, l'avete risentito, l'annuncio del dato sull'occupazione della settimana scorsa, un dato davvero molto soddisfacente. Perché? Perché l'economia americana nel mese di ottobre ha creato 271.000 nuovi posti di lavoro, molto molto al di sopra delle stime attese dal mercato di 183.000 nuovi salariati dipendenti. I mercati a questo punto si aspettano in maggioranza che la Banca Centrale Americana parta con un rialzo dei tassi di interesse, ma essendo in odore di G20, ho detto il tema di questa settimana è il G20 che partirà a livello di capi di Stato e di Governo domenica e lunedì, vorrei affrontare questo problema dell'occupazione, perché in America funziona, in Europa ancora no. Ho con me i microfoni di America 24, Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, che è stato di passaggio per qualche giorno in America, ha incontrato delle controparti a Washington, ha avuto degli incontri a New York, dunque lo saluto. Buongiorno Barbagallo. Buongiorno a tutti voi. Allora, vado subito con una domanda precisa. Che garanzia abbiamo che un sindacato come il suo, che poi ha molti pensionati iscritti, come dire, possa essere una garanzia credibile per il futuro del paese? Intanto noi siamo il sindacato più giovane perché abbiamo meno iscritti pensionati in percentuale degli altri sindacati. Noi abbiamo un terzo dei nostri iscritti come pensionati, le altre organizzazioni hanno il 50% o più, quindi statisticamente siamo più giovani. Ma a parte questa considerazione, il fatto di essere rovina dell'Italia lo dicono sempre le nostre controparti. Noi negli anni, diciamo, del dopoguerra in poi ci siamo battuti per far migliorare le condizioni economiche, sociali e lavorativi dei lavoratori, anche le condizioni delle pensioni. Se questo è un fatto negativo, dovrebbero sapere i commercianti o gli imprenditori, che poi sono quelli che ci fanno queste accuse, che se non avessimo avuto questa prospettiva di aumento salariale, incremento delle condizioni di lavoro, non ci sarebbe stato sviluppo di Italia. Scusi Barbagallo, allora no, volevo dirle, insomma, ma non è soltanto questione di giuste rivendicazioni per un miglioramento salariale, ci sono problemi di regole, di rigidità del mercato del lavoro, di mancata mobilità, insomma è questo che ha affossato il paese. Il paese lo hanno affossato le 1000 regole, 153.000 leggi che impediscono alle imprese di fare impresa. Quindi non è colpa del sindacato, lei dice non è colpa del sindacato? Sicuramente no, ma guardi, lei poco fa dava i dati degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si stanno investendo 1.000 miliardi di dollari l'anno, in Europa, in Italia non si sta investendo un euro. Barbagallo, la interrompo un attimo perché abbiamo un ospite, una sorpresa per lei. L'ospite che abbiamo per parlare sempre di occupazione, in qualche modo una sua controparte, Elsa Fornero, ex ministro del lavoro. Ministro, lei ha sentito quello che ha detto Barbagallo, cosa risponde? Il sindacato ha qualche colpa o no? Ma io preferisco non parlare di colpe. Io credo che l'Italia sia stia scontando sotto molti profili comportamenti, diciamo, non cooperativi. Sono 20 anni, non è soltanto nell'ultimo periodo della recessione, ma sono 20 anni che l'Italia cresce troppo poco e che il paese investe troppo poco. E abbiamo capito che il modo vero per fare lavoro e fare lavoro adeguato è che il paese torni a crescere e quindi che le imprese investano. Ma questo è quello che dice Barbagallo, quindi vi trovate d'accordo o no? Ma poi sa, essere d'accordo sui principi è facile, poi il modo in cui questi principi vengono declinati. Sicuramente Barbagallo e io siamo d'accordo sui due obiettivi che stavano alla base della nostra riforma del mercato del lavoro. Io dicevo, il mercato deve essere più inclusivo e più dinamico. Più inclusivo per me voleva dire un mercato che porta dentro i giovani, tiene dentro anche i lavoratori anziani, non li manda fuori solo per far posto a qualcun altro, e le donne. Un mercato dinamico, un mercato che non ha le rigidità che ha il nostro mercato o che aveva. La modifica dell'articolo 18, io sono stata più o meno crocifissa per quella modifica, anche dal sindacato di Barbagallo, e però dopo è arrivato un governo che gliene ha fatta digerire una molto più incisiva. Questi sono cambiamenti. Barbagallo? E allora, prima considerazione, le modifiche sul mercato del lavoro non hanno creato quelle condizioni di occupazione che ci sono negli Stati Uniti, perché non ci sono gli investimenti. Il problema è che nel nostro paese, se non fosse stato per il cambio del dollaro con l'euro, il petrolio a prezzi bassi, le politiche della Banca Europea, non ci sarebbe stata nemmeno la crescita sull'esportazione. E quindi la Fornero ha fatto delle cose che nel nostro paese non hanno avuto nessuna incidenza, ha solo penalizzato le donne, anche quelle del pubblico impiego, portandole di colpo a 67 anni, e non ha creato quella flessibilità in uscita. Io sono d'accordo con lei quando dice che bisogna creare le condizioni per avere stabilità in entrata per i giovani e flessibilità in uscita, ma ancora oggi nel nostro paese chiediamo di fare le norme per la flessibilità in uscita, perché non tutti possono andare in pensione alla stessa età se i lavori non sono tutti uguali. E ecco, se vogliamo fare la staffetta generazionale, facciamo rispondere, abbiamo molto tempo, facciamo rispondere alla Fornero. Beh, intanto la flessibilità in uscita a cui pensavo era quella riferita all'articolo 18, e il dottor Barbagallo sa benissimo che quello era... 18 era una tutela per il licenziamento, era una tutela per gli ingiusti licenziamenti. Però molti imprenditori, forse lei sa bene che magari ha torto, io non lo so, però molti imprenditori dicevano che quello era un ostacolo agli investimenti, un ostacolo alla crescita delle imprese. Io non discuto se è vero o non vero, però siccome gli investimenti le imprese li fanno quando sono... Aspetti Barbagallo, sta peccato parlando, che lei non fosse un mio interlocutore, allora così mi avrebbe chiarito molte cose, e comunque chi rappresenta... Sicuramente, di questo poteva essere tranquilla che glielo avrei chiarito. Chi rappresentava allora la sua associazione probabilmente aveva meno chiarezza di lei, oppure era meno... Bene, allora no, scusate, allora per chiudere, perché ci avviciniamo in chiusura... Per chiudere, l'America è un paese dinamico e l'Italia è un paese che fa molta fatica. Fa molta fatica perché c'è molta resistenza al cambiamento, e da parte sindacale questa resistenza c'è stata. Se adesso gli atteggiamenti sono diversi, noi non possiamo che prenderne atto e essere contenti, e forse questo sarà un aiuto per i molti giovani a cui il sindacato ha pensato troppo poco. La resistenza, diciamo, è fatta dalle 153.000 leggi che ci sono nel nostro paese, la resistenza è fatta dalla incapacità dei governi di investire e fare investimenti pubblici e privati, la resistenza è fatta dal non fare una riforma della pubblica amministrazione che agevola la possibilità di fare impresa, e noi ai giovani ci pensiamo, ma se non rinnovate nemmeno il turnover nelle aziende, come facciamo a far entrare nel mondo del lavoro i giovani di cui tanto parlate? Noi non solo ci pensiamo, ma cerchiamo di dire che bisogna fare gli investimenti che servono per creare quello che succede negli Stati Uniti, l'occupazione che serve. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, abbiamo il ministro Fornero, abbiamo il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, entrambi ai microfoni. Devono scegliere una canzone insieme. Vediamo se c'è l'accordo. Facciamo Bruce Springsteen e facciamo Born to Run, che questo simboleggia bene questa America dinamica a cui noi vorremmo bene somigliare. Barbagallo, va bene? Bene, allora, bene, almeno su questo siamo d'accordo. Un accordo sulla canzone, fantastico, in nome di Bruce Springsteen, Born to Run. È tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!